je monte sur la pute pour m'approcher du ciel. Tout fêlé, odeur de joint sur le CV, dans serré sur la paume de la main, c'est pas du henné. Ma con s'est mal caché quand j'ai la braguette ouverte. Pour parier ta table, j'ai mis ma plaquette sous le verre. Ils mettent un nouveau terminus, mais nous on rentre les mêmes délires. Ma kill la rame en 7 minutes, on n'a pas besoin de la MD10. Usine à crack, sur l'île de France, c'est Alcatraz. Vie est triquée, tout est truqué, tu peux même perdre si t'as 4 races. Je m'en vais là-haut, sur la butte, pour regarder Paris, paradis des slardis. Tu vois que tu vises des parvis au parking, y'a que de l'asphalte, c'est malsain, même sans un tas de gros mots. Fraudeur de la NASA, un clandestin en combi d'astronaute. Je m'en vais là-haut, sur la butte, pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. Je m'en vais là-haut, sur la butte, pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. Bentornati sulle libere frequenze di Radio Wombat. Questa è Carta Canta, una trasmissione neonata, partita da poco, nata dalle ceneri della vecchia Wombat News. Oggi andremo a fare una puntata veramente speciale, un po' sull'onda emotiva dei tanti annunciati sgomberi dei centri sociali fiorentini, per cui si è anche mobilitata una grossa assemblea, ci sono state diverse iniziative. E noi dal nostro punto di vista ci teniamo un po' a ripercorrere la storia di quelli che sono stati i centri sociali per questa città, le varie occupazioni, i vari movimenti che si sono occupati di occupare appunto le case, i posti per rendergli una nuova vita. E oggi con un ospite davvero speciale, che forse i più attenti di voi ascoltatori riconosceranno una voce non troppo sconosciuta, andiamo a ripercorrere la storia di uno che di un centro sociale che è appunto un pezzo di storia per la città di Firenze, il centro sociale Ex Emerson. Sì, una storia ormai trentennale, se si considera appunto l'attuale Next Emerson. Una storia che inizia alla fine settembre dell'89 dal punto di vista dell'occupazione, ma diciamo dal punto di vista della preparazione dell'occupazione inizia un po' prima. Per l'appunto noi volevamo chiederti un po' come è nata questa esperienza dell'Emerson, se su che contesto si inserisce, da che lotte nasce, come si è arrivati appunto alla decisione, che sappiamo essere sempre molto complicata, cioè le gestazioni dell'occupazione sono sempre molto particolari, molto lunghe, molto complesse. Come si è arrivati a questa scelta di occupare un centro sociale? Diciamo che alla fine degli anni Ottanta ci fu questa esplosione, questo continuo di occupazioni che si susseguivano in tutte le città d'Italia, e tra l'altro nell'estate dell'89 ci fu lo sgombero di Leoncavallo che... Lo sgombero di Leoncavallo che in quel momento era l'apice, diciamo, uno dei centri sociali più riconosciuti a livello nazionale, e a cui alla difesa di Leoncavallo parteciparono anche alcuni compagni e compagne di Firenze. Ma al di là di questo, al di là, diciamo, di una situazione, di una fase nazionale italiana in cui c'era appunto questa effervescenza delle occupazioni, c'è la specificità dell'occupazione dell'Emerson, che vedeva appunto una componente, tre componenti, diciamo, e poi alla fine, durante la preparazione dell'occupazione, si fusero in un gruppo solo, e cioè alcuni compagni e compagne del Cineava Tribe, che era un locale autogestito in cui suonavano i gruppi punk anarchici dell'epoca, una componente che proveniva da giovanile, proveniva da questa lotta contro l'inceneritore dei rifiuti speciali, chiamato volgarmente Bombolino, una lotta popolare molto, molto dura, molto pesante, molto partecipata, che si risolse una vittoria, tant'è che questo inceneritore dei rifiuti tossici non è mai stato costruito, doveva sorgere dove attualmente c'è il viale 11 agosto in quella zona lì. Quindi all'interno di questa partecipazione popolare di corteri 1000-2000 persone c'era una componente giovanile che appunto insieme all'altra componente giovanile e insieme ad alcuni ragazzi del quartiere andò a occupare questo edificio dismesso in via Vargasi nella zona di Novoli, che era, si chiamò Emerson, una fantasia veramente scarsa, perché era la fabbrica Emerson, una fabbrica di componentisti elettronica che aveva fallito diversi anni prima e che tra l'altro aveva la particolarità di essere stata la fabbrica fiorentina in cui si era sviluppato il primo nucleo, diciamo Cobas, primo nucleo di lavoratori al di fuori dei tre sindacati tradizionali, e che nel momento in cui ci fu l'occupazione ancora rimaneva in piedi, nonostante ci fosse stata la chiusura della fabbrica e il licenziamento, ma rimaneva in piedi come momento di discussione, tant'è che l'ultimo, perché poi dopo circa un annetto questo nucleo si sciolse, le ultime loro riunioni avvenivano nell'edificio già occupato. Diciamo che la scelta della zona non è stata per niente casuale, cioè tuttora comunque sappiamo che Novoli è una zona che, seppur sta vedendo un progetto di riqualificazione anche molto aggressivo, soprattutto con la recente apertura della linea della tramvia, i prezzi degli affitti che stanno schizzando alle stelle, però tuttora la zona intorno a via Baracca è comunque una zona molto popolare. Immaginiamo che all'epoca questa differenza di ceto, se proprio possiamo chiamarla così, si sentisse ancora di più. Le radici del centro sociale si radicano proprio in una base popolare. Sì, era una zona veramente popolare che quelli erano, diciamo, i primi anni in cui si assisteva diciamo a una riqualificazione, tra virgolette, una riqualificazione nel senso dei padroni della città, però diciamo si manteneva con una zona popolare con una buona solidarietà, ecco. Poco dopo l'occupazione dell'Emerson ci fu questo tentativo da parte della giunta comunale di, poi successivamente abortito, il primo tentativo di espansione a nord-ovest nella piana, tant'è che ora non c'è niente, però c'era un grosso progetto di cementificazione da dove c'è tuttora l'aeroporto. Fu un progetto che fallì per l'opposizione sia per scontri tra poteri all'interno appunto dei poteri forti della città, ma anche per l'opposizione popolare. Rimase in piedi il progetto del Palazzo di Giustizia e quindi tutta la zona intorno, tra cui anche la zona che c'era il centro sociale, cominciava a essere interessata da una ristrutturazione degli stabili abbandonati, delle case di via, in un senso uffici, ecco, più che altro uffici. Prima il vicino, tra l'altro, c'era, quando noi occupammo non c'era più la Fiat, però ancora rimaneva una zona dismessa, e così come la Rapelli, dove attualmente c'è la Casa di Risparmio di Firenze. Quindi una zona ancora popolare, però in cui cominciavano già a innescarsi, almeno dal punto di vista dei progetti, quella cementificazione, quella ristrutturazione edilizia, speculazione edilizia, di cui stiamo cominciando a vedere gli effetti ora. C'è anche l'apertura del polo universitario, immagino che abbia avuto un effetto sulla zona, non so se già all'epoca se ne parlava, è stato un progetto successivo. Se ne parlava, però ancora il progetto, non c'era ancora neppure un vero e proprio progetto, proprio dal punto di vista del progetto, e conseguentemente neppure la costruzione, ecco. C'era questa zona di cui ora si vede il Parco di San Donato, però che da dove attualmente c'è, da via Forlanini fino a dove c'è l'asta di Spagna, diciamo fino all'altezza del mercato ortofrutticolo, e quindi sulle due parti, su via Guidoni e su via di Novoli, era completamente da riutilizzare. C'erano comitati dei quartiere, attenzione popolare, però non si è mai esplicitata una forza tale da permettere che quella zona lì venisse riutilizzata in una forma migliore di come quella, almeno dal punto di vista della partecipazione popolare, della gestione popolare, migliore di quella che c'è adesso. Ok, e veniamo proprio al nostro centro sociale. Non so se ci puoi raccontare qualche curiosità, qualche aneddoto, cosa facevate i primi anni, quali erano le attività in cui vi dilettavate di più, i percorsi che vi seguivate. Vabbè, quando se ne parla va considerata innanzitutto l'evoluzione tecnologica che c'è stata. I volantini erano fatti a mano, cioè sui ciclostile e ciclostilati, quindi le copie erano 100-200 per volta, ci si metteva circa un'ora a farne una. Non c'erano telefonini, non c'era, e questa è la cosa più, tra virgolette, non interessante, però che il centro sociale subì un taglio della luce, nonostante le nostre proteste, i nostri presidi all'Enel, non fu mai riallacciata, quindi il generatore, però non c'erano i distributori automatici, quindi fino alle 7 toccava andare ai distributori automatici a prendere la benzina, per metterla. Sembrano cavolate, però erano problemi grossi, tenuto presente che non è che ci si poteva telefonare tra di noi perché non c'erano telefonini, quindi insomma tutta una serie di inconvenienti, diciamo proprio di gestione, spiccioli, incidevano sull'attività del centro sociale. Da un punto di vista invece più strettamente legato all'attività, c'erano due o tre campi di intervento che tra l'altro si possono ritrovare tuttora, con una sorta di codice genetico, ecco, dell'Emers e dell'Estemers. Il primo riguardava la ristrutturazione urbanistica della città e in particolare del quartiere di Novoli, considerato anche che sull'Emers gravitava tutta la zona nord di Firenze, quindi il comitato di lotta delle piagge, il comitato contro l'aeroporto di Penetola, neppure un implementatore, era proprio contro l'aeroporto di Penetola, quindi tutta una serie di comitati e quindi tutta una serie di attenzioni alla ristrutturazione urbanistica. L'altro era dato dalla lotta contro l'eroina, cioè non contro l'eroina, era dato dalle rivendicazioni che era propria a livello nazionale di tutti i centri sociali, cioè per la legalizzazione delle droghe, e quindi da un lato iniziative in questo senso, dall'altro una attività proprio sul campo, per la strada, contro lo spaccio, perché per tutta una serie di motivi, perché c'era ancora lo strascio di quello che aveva significato di mettere l'eroina nei quartieri popolari all'interno del movimento, quindi l'eroina utilizzata come strumento di repressione e di normalizzazione delle lotte. L'altro aspetto era quello rispetto a erano i primi tempi che ci si affacciava ai computer, alle tecnologie, quindi i primi hacker, le prime VPS, i primi tentativi di mettere in rete le situazioni non solo nazionali ma anche quelle internazionali, tant'è che la prima rete VPS e la rete CN vedevano l'Emerson tra i protagonisti anche a livello europeo di questa rete. Questi erano i punti principali su cui si sviluppava il percorso del centro sociale. Chiaramente poi c'erano tutto il testo. Quello che non c'era c'era l'antifascismo, non c'era nella forma migliore l'antirazzismo, perché ancora i migranti non c'erano sostanzialmente. Quindi tutta una serie di problematiche che stiamo vivendo adesso erano lontane, erano sconosciute. Però la lotta contro la ristrutturazione urbanistica e quindi del quartiere, tutto il discorso rispetto alla riappropriazione delle tecnologie stava avanzando, e tutto il discorso detto precedentemente. Dall'altro, un'altra cosa interessante, il 90 fu l'anno dei mondiali, di calcio in Italia. Firenze era una delle città candidate, e poi fu una delle città che ospitò partite del mondiale, e intorno alla ristrutturazione dello stadio c'era tutta una, partendo da quello, quindi tutti i soldi arrivavano per questa kermesse calcisti a Firenze, contribuirono un po', diciamo, a innescare questi processi di distruzione dal nostro punto di vista e di ristrutturazione dal loro punto di vista, dal punto di vista della controparte urbanistica. Mi ricordo per esempio l'assemblea contro diciamo mondiali 90, contro la ristrutturazione operata negli anni 90, fu interrotta dall'iniezione al centro sociale di 20 sbirri armati proprio dentro, con tanto di mitraglietta, con fuori chiaramente tutta una sfilzata di pattuglie della polizia, proprio perché ci tenevano a non avere diciamo, antagonismo, a non avere manifestazioni contro questa kermesse mondiale, un po' da noi in piccolo chiaramente, come succede tutte le volte. Abbiamo visto mondiali in Brasile in cui sono state ristrutturate, le favelas sono stati cacciati in una forma molto più chiaramente dal regime sudamericano, i poveri, diciamo, tra virgolette. Anche a Firenze quell'anno lì fu una cosa pesantissima a questo punto di vista. Noi si fece un volantino, la prima squadra già scesa in campo, perché già 4-5 mesi prima dell'inaugurazione mondiale erano già deceduti 22 lavoratori nei vari cantieri dei mondiali in Italia. Si fece questo volantino e fu veramente una cosa pesante, e quindi insomma, con tutto quello che abbiamo seguito dal punto di vista repressivo. Questi quindi sono i primi anni del centro sociale. Quanto è durata questa esperienza nel quartiere di Novole? Allora, noi occupammo nel settembre dell'89, fummo sgomberati in una maniera pesante a luglio, a metà luglio del 93. Mi sembra il 14 luglio, ma non ne sono sicuro, l'11-14. La cosa particolare è che lo sgombero avvenne a un mese circa dallo scoppio della bomba, la strage degli Uffizi, che tra l'altro fu il giorno dopo vide una partecipazione impressionante dal punto di vista numerico della popolazione fiorentina, con chiaramente un mese dopo o un mese prima? Un mese prima ci fu la bomba. Okay. Un mese prima ci fu la bomba, e era incerta la matrice, perché insomma la tendenza stragista sì era stata sconfitta, però ancora aleggiava, e comunque nei compagni rimase sempre questa attenzione. Il giorno dopo c'è questa immensa manifestazione, poi dopo successivamente la matrice scoprì che era mafiosa, però diciamo la prima risposta fu una risposta popolare, che indipendentemente da quando era la matrice dell'attentato, però dava una risposta non istituzionale, non nel palazzo, ma bensì nelle piazze. Tra l'altro Ok, torniamo al nostro centro sociale. Oggi forse potete accorgervi che abbiamo per voi una playlist speciale, infatti stiamo scegliendo solo gruppi fiorentini per rimanere un po' nel clima degli anni 90. Questo era un pezzo un po' successivo, diciamo, degli anni 2000, però comunque gente che questo centro sociale lo conosce bene, ci ha provato diverse volte, alcuni pezzi magari sono anche nati qua dentro. Questi per l'appunto erano i Carlos Dunga, un po' gruppo di casa cresciuto all'Emerson. Torniamo alle lotte di quegli anni, alle cose che succedevano a Firenze. Tra l'altro in questo quadro, in questo tentativo del centro sociale di opporsi alla ristrutturazione del quartiere, più in generale alla ristrutturazione della zona nord della città, ci fu questa occupazione del cinema Primavera, che era un cinema all'aperto, e quindi più che cinema era un giardino che era bello grande, e con la particolarità che questo cinema era il cinema del dopolavoro dell'Officina Galileo. Quindi nel momento in cui le Officine Galileo furono chiuse e si trasferirono nella Piana Fiorentina, questo cinema, e quindi questo giardino, rimase vuoto, questo pezzo di verde rimase vuoto, abbandonato, però con un'attenzione da parte degli abitanti del quartiere, perché comunque se lo sentiva suo, perché era il cinema del dopolavoro della fabbrica, e in quel periodo abitavano intorno a questo pezzo verde quelli che erano lavoratori dell'Officina Galileo. Comunque era un cinema di quartiere. Sopra c'era una storia sporca di speculazione finanziaria, nel senso che fu acquistato dal comune di Firenze per una cifra esagerata, e per 10 anni, perché l'Officina Galileo si trasferì nell'81-82, noi occupavamo il 92, per 10 anni rimase abbandonato in attesa di una speculazione edilizia, cioè di costruirci dei palazzi, degli appartamenti, degli edifici. E tra l'altro su questa cosa rimase impigliato, anche se poi non andò a processo, quello era l'assessore alla cultura nel momento in cui fu acquistato il cinema, e quindi attraverso il suo assessorato furono tirati fuori i soldi, e che poi sarebbe diventato il sindaco di Firenze. Noi lo occupammo e fu una cosa bella, perché gli abitanti del quartiere, neppure un'ora dopo noi aprimo questi cancelli, affluirono in massa, e per circa, non so che po', era giugno, per tutta l'estate fu autogestito addirittura come centro sociale. Diciamo, non fu più gestito solitamente soltanto da un panel del centro sociale, ma dagli abitanti del quartiere insieme a noi, insomma. E questa cosa andava avanti per tutto l'anno, e tra l'altro l'occupazione fu difesa dagli interventi di polizia, vigili, ricordo un volantino, la polizia, forse l'ordine contro Stanleorio, perché intervennero mentre proiettava un film come appunto Stanleorio, e fu proprio una cosa ridicola da parte loro, la voce fece traboccare in base, e quindi tutti si misero lì nel mezzo per impedire alle forze dell'ordine di entrare dentro, e tra l'altro poi dopo non riuscirono neppure ad andare via tanto bene, perché insomma le macchine furono abbastanza ammaccate, insomma tutto bene. Fu una cosa di dopo tutto l'anno, e l'estate successiva fu vinta, poco prima dello scontro del centro sociale, fu vinta con una formula, allora fu la prima formula, la prima volta in cui un'amministrazione comunale dovette accettare una formula in cui la gestione di un bene pubblico era affidata direttamente agli abitanti in una forma, neppure un'associazione ben precisa, ma proprio in una forma, diciamo, di fatto, ecco, nel senso che le chiavi, vennero date le chiavi del cancello formalmente, e a turno gli abitanti del quartiere aprivano proprio un'innovazione. innovazione dal punto di vista legislativo e dovete accogliere, diciamo, che era già la realtà dei fatti. E poi appunto ci fu sempre l'estate lì del 93, dopo tutte queste cose qui, ci fu lo sgombero del centro sociale. Se ti va, raccontaci un po' di questo sgombero, qual è stato il clima, come è avvenuto, qual è stata la risposta, visto che comunque a Firenze siamo in clima di sgomberi, il clima è abbastanza pesante, siamo un po' tutti minacciati, chissà che l'esempio dell'Emerson di allora non dia qualche idea a qualcuno. Sì, perché era un periodo un po' così, perché tra l'altro anche CPA, che anche loro erano occupati più o meno nello stesso periodo, loro al sud, noi al nord, c'erano problemi di sgombero, ma poi alla fine in realtà quello che fu sgomberato fu l'Emerson, proprio probabilmente per una risposta forte da parte appunto dei poteri forti, un'iniziativa forte perché si dava veramente fastidio con quella zona che loro consideravano centrale per una futura espansione urbanistica, cementificatrice, via dicendo. E noi si venne a sapere vie un po' tortuose. Allora c'era stato un esposto da parte di un abitante, anzi no, c'era stato un esposto da parte, non di un abitante, da parte dell'ASL, ora non mi ricordo quale ente istituzionale preciso, per i bagni, mi sembra, insomma, una roba del genere. Loro non erano mai entrati, però c'è questo cavillo che permise alla magistratura di effettuare questa ordinanza di sgombero. Noi sapevamo che c'era un'ordinanza di sgombero, da diversi mesi c'era, e a un certo punto noi si pensava, come avveniva spesso in quel periodo, gli sgomberi sarebbero stati effettuati nel periodo estivi, e quindi nel periodo luglio-agosto, e noi si venne a sapere per vie un po' traverse, più o meno la settimana in cui ci sarebbe stato questo sgombero. E quindi iniziamo una settimana di mobilitazione a partire dal sabato, da quello sarebbe stato poi alla fine il sabato precedente ai martedì che ci fu lo sgombero. E quindi alle 5 la mattina arrivò questo numero pazzesco di svegli. Voi eravate dentro il centro sociale comunque? Decidemmo di difendere il centro sociale, via Bartazzi era una traversa di via Baratta, decidemmo di difendere il centro sociale ponendoci all'imbocco del centro sociale, quindi da una parte su via Baracca e dall'altra su via di Novoli. E dall'altra su via di Novoli. E ogni tanto ci sono degli aggiustamenti. E dall'altra su via di Novoli, proprio perché erano due grosse arterie e quindi contavamo sul fatto di resistere e di coinvolgere, diciamo così, tutto questo traffico che passava a queste arterie. Teniamo presente che eravamo, non solo noi, ma in generale i compagni in tutta Italia, centri sociali, totalmente disarmati dal punto di vista mediatico. Non c'erano telefonini, non c'erano macchine fotografiche, non c'erano videocamere e non c'era soprattutto la possibilità di farle girare le immagini, i comunicati, tutta questa roba qui in un tempo ristretto, insomma, no? Quindi c'era questa particolarità, cioè ci si mise lì per questa cosa lì. E ci si mise lì perché si pensava, tra l'altro, che la resistenza all'interno del centro sociale sarebbe stata non solo più difficile, ma anche più pericolosa dal punto di vista fisico. Ecco. Tra l'altro c'era una particolarità, che c'erano una o due consiglieri comunali, ora non mi ricordo, che erano usciti dai PC di già tempi precedenti e che avevano dato la disponibilità a farsi da mediatori, diciamo così, tra virgolette, tra noi, la sbirraglia e l'amministrazione comunale. E noi dalle 5 alle 6 si resistette, non ci furono aree pesanti, ci furono aree così, però si resistette. Poi a un certo punto, verso l'8 e mezzo, proprio quando erano stati contattati giornalisti, il sindaco stesso, via dicendo, a parte studi attivi, però chiaramente non fu per quello, fu perché insomma era già belle due ore e mezzo che c'era questo tiro e molla con la polizia, insomma effettuare una carica pesantissima, circa 20 feriti da parte nostra, di cui uno, allora non c'era il codice rosso, però uno ricoverato in ospedale con diverse decine di punti in capo, in testa, e a quella carica non si resistette. Noi avevamo messo cassonetti, insomma tutto il possibile, tant'è che appunto si riguardavano prima della trasmissione al territorio di giornale, trincee autonoma in centro in via Bardazzi, cioè Ernest Emerson, e appunto ci fu questa area pesantissima, perché noi tra l'altro era un martedì, il sabato precedente c'era un sacco di gente, il martedì per tutta una serie di problemi, lavori e così via, eravamo circa un 150 a difendere la mattina alle 5, poi dopo arrivò gente, perché una 150 si rimase dalla parte di qua, degli Sbilli, altrettanti erano dalla parte di là all'8 la mattina, e quindi 150 loro erano di più di noi, ma soprattutto erano dislocati nelle vie adiacenti e davanti agli edifici, diciamo, sensibili. C'era un centinaio, erano davanti a in Piazza Signoria, altrettanti davanti agli uffici della regione, insomma avevano presidiato tutti i vari punti in cui pensavano si potesse andare nel momento in cui c'era uno scombero. E quindi ci fu quest'area violentissima, non ci se la fece a opporsi, si riuscì comunque a ripartire in corteo. A quel punto eravamo circa 500 e arrivammo da Piazza Medaglie d'Oro, diciamo da metà di via Baracca, arrivammo fino sotto Piazza Signoria, e tra l'altro, e nel frattempo facevamo il corteo, rioccupammo da un'altra parte, proprio perché lì era presidiato. Lì fu dopo circa un giorno fu completamente murato e abbattuto tutti i muri interni. E quindi nel frattempo c'era il corteo, una parte andava dall'altra parte a rioccupare. Ma fu una resistenza lunga e da un punto di vista, come dire, dell'incisività, del contrapporsi fu insomma importante, ecco, tant'è che poi ci hanno pensato prima di fare altri sgomberi, nel senso non sono più intervenuti in quei termini, insomma fu una bella resistenza di cui ne pagammo le conseguenze dal punto di vista fisico, anche da un punto di vista processuale, perché ci tracciamo un processo prima per 40, poi dopo rimase soltanto 20 per diversi anni per resistenza, lesioni, insomma tutta la manifestazione autorizzata, tutti i reati caratteristici degli sgomberi. Ancora non davano devastazione e saccheggio, perché era un reato che hanno cominciato a mollare alle stanze di movimento dopo Genova, diciamo, prima non c'è. Dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, dai, sopporti, d la Fiesole ha un solo cuore che sempre batterà e mai si fermerà e brillerà per sempre la stella di Firenze, la nostra fede è grande ma tramonterà l'Europa, l'Italia, Firenze, un solo grido si alzerà. Fiorentina, oe! Fiorentina, oe! Ed eccoci tornati alla storia del nostro bellissimo centro sociale, che a questo punto della nostra storia ha cambiato casa, si è trasferito qualche chilometro più a nord e da via Bardazzi a Novoli è passata in via, Niccolò da Tolentino a Rifredi, Careggi, la zona che Rifredi e Careggi. La zona che viene chiamata gergalmente ai greci perché esatto. Ci vivevano i profughi greci della guerra all'epoca. E non so, raccontaci un po' questo, il secondo Emerson, come si è sviluppato, cosa se è cambiato qualcosa col cambio di quartiere. No, noi decidemmo, sì, non era proprio vicinissimo, anzi non era per niente vicino al primo Emerson, chiamiamolo così, però decidemmo di rimanere nella zona nord, anche perché questo giardino Primavera, che appunto, cioè, c'era stata appunto questa grossa lotta, era nelle, se non proprio nelle vicinanze, però era vicino in via da Tolentino. Tra l'altro anche quella era una fabbrica in cui c'era stata una lotta, e l'altra particolarità appunto era che tutto intorno c'era questo quartiere popolare dei profughi greci, che tra l'altro avevano anche una storia dal punto di vista della soggettività militante ben definita, ecco, diciamo così, e occupammo lì. Tra l'altro l'altra particolarità era che non proprio l'edificio, ma l'edificio accanto era già stato occupato dal movimento Lotta per la Casa. C'erano case occupate, tre famiglie, appunto, e quindi un po' sanciva anche questo rapporto stretto con il movimento Lotta per la Casa che ha caratterizzato l'Emerson e il movimento Lotta per la Casa fino alla fine, diciamo, degli anni 90, un rapporto veramente stretto, e quindi ecco, questa occupazione era anche in questo senso qui. E io penso sempre, lo penso tuttora, che nonostante lo sgombero, uno in senso collettivo entra nella occupazione successiva nella stessa maniera ha lasciato l'occupazione precedente, indipendentemente dallo sgombro, dalla repressione e via dicendo. Quindi essendoci una situazione forte, diciamo così, dal punto di vista dell'iniziativa, questa si trasferì immediatamente in via da Tolentino, chiaramente con tutti i distinguo rispetto alla zona, rispetto all'edificio stesso, la conformazione dell'edificio e via dicendo. Però io penso, lo penso tuttora, che appunto lo sgombero incide da un punto di vista repressivo, da un punto di vista della necessità di doversi difendere poi successivamente nelle fasi processuali e via dicendo, però incide meno, anzi per niente, da un punto di vista dell'internità dell'attività di una situazione, sia centro sociale o sia casa, insomma, ecco. Quindi più o meno tutte le iniziative furono trasferite in via da Tolentino, appunto la particolarità di essere in un'altra zona, però con tutti i discorsi contro la ristrutturazione urbanistica si aggiunse anche una nuova tematica, che era quella, diciamo, del verde, e quindi nel nostro caso non una tematica, diciamo, così astratta, puramente logistica, ma della riappropriazione da parte della gente degli spazi verdi, essendo appunto una zona pedicollinare vicino alla collina, ancora caratterizzata da questa estensione, diciamo, di verde non né coltivato né curato, diciamo, da un punto di vista di giardini, e quindi neppure utilizzato dalla gente. Quindi una delle prime nostre iniziative fu entrare, occupare il campo, lo chiamavamo così, il campo davanti, dall'altra parte della strada del centro sociale, che era di un proprietario terriero, e utilizzarlo, e poi fu utilizzato anche in quel senso lì, anche se in una forma più informale ancora, il giardino primavera, da parte degli abitanti. Però ecco, si susseguirono tutte le iniziative che c'erano precedentemente, e cambiò anche un po' la composizione degli occupanti e delle occupanti del centro sociale, con una maggior partecipazione da parte di studenti universitari e via dicendo. La particolarità di quel periodo, almeno da un punto di vista nazionale, è che ci furono tra il 94 e il 95 due grosse assemblee nazionali, incontri nazionali dei centri sociali, che ha raggiunto a maturazione, diciamo, questo percorso che era iniziato alla fine degli anni Ottanta, la prima in particolare a Napoli, in cui dall'Emersis partì addirittura un pulmino in 20, ma all'Assemblea Nazionale durò 3 giorni, c'erano un 500 tra compagni e compagne, quindi una cosa veramente, veramente grossa. E per 2 o 3 anni, due o tre anni ci fu manifestazioni e iniziative a livello nazionale, una partecipazione grossa. Probabilmente in quel periodo in cui ancora i Hobas da un lato, i movimenti di lotta per la casa, comunque diciamo un senso più generale, avevano delle battute d'arresto, comunque diciamo rimaneva un po' più in fondo, ecco, nello sfondo. Probabilmente il coordinamento nazionale, insomma, dei centri sociali, più in genere la galassia dei centri sociali, era il settore più incisivo dal punto di vista del movimento antagonista. E via da Tolentino siete rimasti per parecchi anni? Siamo rimasti fino al 2006, e anche lì lo sgombero è stato fatto anche lì per far posto a una speculazione edilizia pazzesca, in cui ai privati sono stati elargiti milioni e milioni di euro, perché si sta già parlando di euro, è il 2006, per costruirci e gestire e vendere delle case loro, cioè loro hanno costruito a costo zero, non solo sull'area Emerson, ma anche su quella era l'area Emerson, ma anche su altre aree della città, sono stati finanziati per il 40% del costo di costruzione. Sono state azzerate qualsiasi spesa di ristrutturazione urbanistica che sarebbe obbligatoria per chi fa nuove costruzioni. È stato permesso, cioè proprio da un punto di vista legislativo formale, di non pagare l'ICI per 20 anni. Loro hanno alzato i prezzi di costruzione, tipo loro hanno detto 400 euro per costruire un appartamento, mentre invece in realtà le è costato 200 euro, il 40% dei 400 euro sostanzialmente va a coprire quella è stata la spesa reale. Queste sono testimonianze reali, perché si sa di lavoratori impiegati a nero e quindi non risultanti lavoratori doppiamente impiegati e quindi non, spese maggiorate, raddoppiate, e quindi è stato permesso di costruire a gratis con tutti i guadagni a netto, insomma, i soldi, si hanno venduto un appartamento per 200 euro, per esemplificare, per 300 euro, erano tutti soldi guadagnati, cioè, non, di guadagno, perché è stato finanziato totalmente tutto l'intervento edilizio su via da Tolentino, ma questa è stata un po' tutta la ristrutturazione della zona in cui ci siamo battuti per anni, alcune volte vincendo, diciamo sì, tra virgolette, altre meno, fino a poi giungere all'epilogo dello sgombero, che fu in una forma un po' diversa dalla prima volta, anche se anche la volta ci furono cordoni per impedire lo sgombero, però lì arrivò proprio direttamente le benne di Margheri e un altro, ora non mi ricordo, che si aprirono, protette dagli sbirri, si aprirono i varco, lì ci sono le foto, si vede, cioè, i bracci delle benne buttano giù il centro sociale. Nel frattempo c'era stato, per noi era iniziato da Seattle nel 99, tant'è che il centro sociale stampò un libro, Seattle 1999, perché alcuni compagni erano presenti a Seattle, quindi dal 99 fino diciamo al 2004-2005, fino praticamente allo sgombro dell'area lì, molte delle energie del percorso del centro sociale dell'Emerson fu caratterizzato dallo stare all'interno di questo movimento globale, diciamo, antiglobalizzazione, che si esemplificò partendo da Seattle, poi ci fu il controvertice di Nizza, la partecipazione contro il vertice di Davos, e poi passando chiaramente da Genova, il Social Forum a Firenze l'anno successivo, e via via, fino a che non ci fu una sorta di esaurimento, almeno dal punto di vista della partecipazione dell'area antagonista a questi vertici, diciamo. Però anche a Mumbai nel 94, nel 95 c'era una rappresentanza del centro sociale. E quindi arriviamo a un altro di quelli che è stato, possiamo dire, uno dei grandi eventi che ha segnato una generazione, ne ha marcato il destino politico, ha lasciato una ferita aperta in tutte le coscienze, cioè il G8 di Genova nel 2001, a cui immagino il centro sociale abbia comunque partecipato con molto protagonismo, sia sul territorio nazionale, sia sul territorio cittadino, sia alla manifestazione in sé. Beh, sì, perché tra l'altro, pur essendo appunto, era pensare globalmente, agire localmente, insomma, anche l'attività sul territorio comunque erano caratterizzate da questa partecipazione, di questo essere all'interno di questa situazione, diciamo, transnazionale, ecco, mondiale, e anche la partecipazione a Genova e la partecipazione al Social Forum europeo a Firenze caratterizzarono il centro sociale per quel periodo lì. La stessa partecipazione a Genova, l'organizzazione dell'Anti G8, diciamo così, si parla di mesi estivi, e è cominciata praticamente l'anno prima, cioè a metà del 2000 già è iniziata la preparazione di quello, e poi appunto è diventato un passaggio epocale, si può dire, e un discrimine tra il primo e dopo Genova, per tanti compagni, e quindi la partecipazione, l'organizzazione e la partecipazione dell'Emerson a questa a questa cosa così grossa, non mi riesce neppure a trovare bene il termine preciso, fu veramente grossa, e noi partecipammo fin dalla prima, al di là di tutte le assemblee preparatorie, gli incontri e via, noi partecipammo in massa dalla prima giornata, che è quella prima del giovedì, cioè dal mercoledì e giovedì il corteo dei migranti, poi manifestazione in cui hanno assassinato Carlo, e la grande manifestazione del giorno dopo, e partecipando all'interno della rete dei diritti globali, sostanzialmente era l'area era l'area, diciamo, un po' più antagonista, in cui confluivano molti dei centri sociali a livello nazionale e i COBAS, diciamo tutte queste istanze non istituzionalizzate. Piazza Dannovi era la piazza che doveva essere, venne tenuta dal network dei diritti globali, e la stessa piazza in cui si sarebbe dovuti partire in corteo il giorno successivo all'assassinio di Carlo, in realtà siccome noi l'area, quest'area qui era accampata, diciamo, era destinata a un campo sportivo, un piccolo stadio di quartiere che conteneva 6-7 mila persone, era pieno, e noi per andare da lì al concentramento praticamente cominciarono subito gli scontri, cioè noi quando arrivammo a quello dove essere il concentramento per la partenza del corteo avevamo già fatto 2-3 chilometri di sgombero, insomma, perché da lì, visto che quello era successo il giorno prima, cioè dallo stadio, noi ci si rifiutò di andare un po' alla spicciolata, diciamo così, e quindi per noi si partì direttamente in corteo dallo stadio, che era nella periferia, dalla parte, diciamo, della Toscana, dalla parte di Levante, sì, e quindi dallo stadio per arrivare a quello dove essere il concentramento si furono gli scontri. Noi si arrivò al concentramento del corteo, praticamente eravamo già sul punto finale, diciamo, ecco, noi si arrivò lì, poi da lì cominciarono proprio gli assini grossi, siccome dalla parte c'era il lungomare, e quindi la polizia cominciò a caricarci spingendoci verso il mare, cioè noi si resistette praticamente gli ultimi compagni, le file dietro, le prime file erano già sugli scogli, poi da lì si riuscì a resistere, noi tra l'altro il nostro corteo rimase compatto, a un certo punto ci si fermò, però non si permise di farci sdrenare, diciamo, di farci sconvolgere, diciamo, di disperdere il corteo, infatti non avemmo feriti o pesanti come gli altri cortei, ecco, dal nostro punto di vista si rimase tutti compattissimi, non si andò tanto avanti, però non si permise neppure di buscarne, cioè di avere feriti pesanti, tant'è che tutti i vari altri cortei erano lì vicino, erano caratterizzati da arci, diciamo, strapapi, si rifugiarono tra virgolette all'interno del nostro corteo, c'erano, si vide persone, noi di Firenze, di alcune casse del popolo, di circoli arci, che si conoscevano così perché erano, insomma, o vicini di casa oppure del circolo vicino al centro sociale, cominciarono a fluire all'interno del nostro corteo, magari sanguinanti o così via, e poi entrando dentro le nostre file non ebbero più problemi. Sta di fatto, però, noi da Piazzale Kennedy in là non si riuscì ad andare avanti, e si decise di rimanere, visto la situazione di, ora si dice delirio, insomma, di problemi complessivi che c'era in città, si decise di rimanere compatti, riuscire ad avanzare, però solo in una forma compatta, e però si rimase lì. E questa, questa giornata, queste giornate, questa esperienza, ma anche in generale tutto il clima politico dell'epoca, in che modo ha influito su quello che era il clima cittadino e quella che è stata poi la vita del centro sociale? Ma senti, 3 giorni dopo si ritornò a Firenze e si fece un corteo veramente, ma considerato era agosto, si fece un corteo veramente grosso in città, in cui gli sbirri non si fecero neppure vedere, ma non ci furono solo, cioè in tutti i posti, anche a Empoli per esempio ci fu l'occupazione della piazza principale, insomma dappertutto. Però sta di fatto che, per come la vedo io, non c'è stato nell'immediatezza, nei mesi successivi, anche per aspetti climatici, perché era vacanza, perché veramente la preoccupazione maggiore era riuscire a capire cosa era successo e comunque tirar fuori i compagni, perché quando si fece il presidio, il corteo grosso in prefettura, c'era ancora una compagna di Firenze, dopo 3 giorni non si sapeva ancora dove era, perché l'ultima volta l'avevamo vista a Bolzaneto entrare, portare in caserma a Bolzaneto, non era dell'area, non era uno dell'Emers, però era una compagna di Firenze, e dopo 3 giorni non si sapeva dove era. Poi si seppe, il giorno dopo era stata portata a Parma in una struttura ospedaliera, da quanto l'avevano pestata, e poi si riuscì a tirarla fuori da lì. E quindi i mesi successivi, anzi i primi giorni, ma anche il primo mese, furono dedicati completamente a questo. Poi successivamente a tirar fuori, e lo era successo in particolar modo, non solo ai corteo, ma anche alla Diaz, poi a Bolzaneto, e non c'è stato a caldo, ma neppure un pochino a freddo, a calducino, una discussione di tutti e tutti insieme su quello che era successo e su quello che si sarebbe dovuto fare dopo. Ci fu praticamente quasi subito, perché partì il lancio del Social Forum Europeo a Firenze dell'estate successiva, fu a fine del 2001, e quindi noi a Firenze si fu subito impegnati a preparare, almeno dal nostro punto di vista, perché poi il Social Forum Fiorentino fu partecipato da un sacco di istanze, da quelle più antagoniste a quelle più di sinistra istituzionalizzata, però dal nostro punto di vista fu un peso grosso l'organizzazione e la gestione per quanto riguarda l'area dei compagni del Social Forum a Firenze. E poi siamo già, sembra che il tempo ci sia, però in realtà siamo già al 2003-2004 con tutte le problematiche rispetto allo sgombero. Nel frattempo erano iniziate ancora più occupazioni di case anche da parte di studenti, e in particolar modo due vicino all'Emerson, che rinsaldarono questo connubio, diciamolo così, tra gli occupanti di case e il centro sociale, e poi tutta una serie di iniziative rispetto al verde pubblico e via dicendo, e nulla. E quindi si arriva allo sgombero. Si può dire dove erano queste occupazioni, così per curiosità, magari qualcuno. Queste occupazioni, ti ricordi dove erano? Queste di case. Queste di una case. Era via Dazzi. Ah, ok, sì, che resiste che ancora. Sì. L'altra era il Paro, che non c'è, fu sgomberato dopo pochi mesi, però era un'occupazione bellina. Era una bella occupazione perché erano, stragrande maggioranza studenti, però era un componente giovanile, e per cui l'occupazione non era soltanto un'occupazione abitativa, così come via Dazzi, Cecco Rivolta, ma fungeva anche da spazio sociale, da incontro e via dicendo. Quella del Paro, tra l'altro, ci aveva la particolarità di aver occupato un edificio di proprietà ecclesiastica, e quindi anche tutta una serie di iniziative può dire anticlericali, diciamo così, che avevano ragione d'essere, perché insomma lì c'era proprio questo edificio che loro avevano lasciato vuoto per, magari non si sa, però probabilmente per speularci successivamente. E Paro ebbe vita abbastanza breve, alcuni mesi se mi ricordo bene. Cecco Rivolta in via Dazzi c'è tuttora, ha vinto la sua battaglia sull'autorecupero, ma Cecco Rivolta era arrivava a piedi, era a 500 metri neppure. Il Pajaro un po' più su, un po' più verso Serpiolle, Cercina, insomma. Erano belline queste occupazioni e non a caso erano, non erano più nell'ambito urbano in senso stretto, ma con l'erba, il verde intorno, proprio perché c'era questa attenzione, rinnovata attenzione all'orto, al campo, al verde, almeno anche dal nostro punto di vista, dal punto di vista del movimento. Ok, e quindi arriviamo alla casa attuale dell'Emerson, dopo lo sgombero di Via Tolentino, che attualmente si trova in via di Bellagio, in un'altra zona, in un altro quartiere ancora. Possiamo dire che tre occupazioni avete girato praticamente tutti i quartieri di Firenze Nord. Tutti i quartieri di Firenze Nord, perché tra l'altro... dopo lo sgombero di via da Tolentino, prima di arrivare in via di Bellagio, occupammo, anche se sapevamo già che era una forma transitoria, un edificio vicino all'aeroporto di Peretola, lo occupammo anche per una denuncia, proprio perché era un edificio, era stato costruito per il giubileo del 2000, erano stati dati 5 miliardi, sì, perché ancora erano... lire, 5 miliardi alla Curia per costruire questo edificio, che la Curia l'aveva costruito perché era per accogliere i pellegrini che arrivavano, e poi era rimasto vuoto. Quindi lo occupammo su questa denuncia, e poi successivamente è rimasto vuoto per diverso tempo, e Eurelli, e appunto si arriva in via di Bellagio, che è una storia molto più recente, in cui possono documentare, sia da un punto di vista dei documenti, proprio nel senso detto, ma anche come voci, ecco, tanti compagni ci sono tuttora, ecco, sono presenti, e anche lì ci siamo portati più o meno le stesse caratteristiche che hanno sempre contraddistinto l'Emerson, con una composizione magari anche quello un po' più diverso, magari ancora più lavoratori e meno studenti, un'area molto più grande, 8.000 metri quadri, quella in cui ci siamo tuttora, e quindi ho la possibilità di esplicitare, di articolare ancora di più le iniziative dentro, all'interno del centro sociale. È un quartiere che, a differenza di quelli precedenti, con una conformazione urbanistica ancora molto compatta, ancora caratterizzata da case basse, non palazzoni, via dicendo, che al di là del quartiere popolare, anche quello, comunque al di là degli abitanti, insomma, che diciamo facilita uno poi quartiere in cui magari si può fare un volantinaggio porta a porta senza essere costretti a scansare le macchine, insomma, così via, che quindi facilita anche una eternità nel quartiere, se non altro dal punto di vista della presenza nostra. E questa storia arriva fino a ora, fino al momento in cui ci sono problemi rispetto al centro sociale, dal punto di vista dello sgombro, problemi tra l'altro che accomunano un po' diverse realtà fiorentine. Sull'Emerson la specificità è che, e anche qui si ritorna un po', essendo l'Emerson un centro sociale che per scelta, sotto certi aspetti, è sempre occupato delle strutture pubbliche, private, scusate, e quindi si è sempre trovato a scontrarsi una controparte che, diciamo, diretta, ecco, non mediata dal dover rendere comunque alla popolazione o comunque agli iscritti, ai abitanti, un qualcosa. Sull'Emerson la particolarità è che la proprietà era, e lo è tuttora da un punto di vista formale, di una cooperativa edilizia che nel frattempo è fallita per tutta una serie di malestri che hanno combinato loro e che noi tra l'altro abbiamo dato ampio risalto e che quindi un pochino abbiamo contribuito anche noi diciamo a questo fallimento. Quindi tutti i beni di questa cooperativa edilizia, operativa Unia, sono stati messi all'asta, alcuni proprio per pagare i creditori, alcuni di questi beni sono stati venduti, altri no, però diciamo da un punto di vista formale tutti questi beni devono essere messi all'asta da parte del curatore fallimentare. E quindi ci si aspetta che, non sappiamo, può essere domani o può essere fra 6 mesi, un anno e così via, che comunque anche l'area su cui c'è attualmente il centro sociale venga messa all'asta, e quindi da parte nostra la mobilitazione, diciamo così, pensiamo debba essere già precedente al giorno dell'asta. Nel frattempo c'è stata tutta una serie di iniziative del centro sociale, sempre in questo caso un campo urbanistico, che hanno permesso a far sì che diciamo, come al solito, la legislazione attende, diciamo, a volte è costretta a recepire le istanze sociali, per cui una parte del centro sociale dovrebbe, dell'area in cui c'è il centro sociale, dovrebbe rimanere interesse pubblico, quindi autogestita, anche se una parte minimale, circa un decimo, poi tutta una serie di paletti, perché tra l'altro il centro sociale è vicino a un'area UNESCO, in cui tra l'altro noi abbiamo fatto anche delle iniziative. Comunque prossimamente, non sappiamo quando, ci sarà quest'asta, basta aste, perché anche altre situazioni stanno subendo questo meccanismo, che tra l'altro, per come la vediamo noi dell'Emerson, è un meccanismo politico sotto certi aspetti, per cui demanda a un aspetto tecnico, quello invece in realtà è una scelta politica, no? Perché quello invece erano prima gli interventi direttamente della magistratura, ora diciamo lo sgombero viene preparato da queste aste che, guarda caso, privatizzano o comunque fanno passare tutti beni pubblici o comunque situazioni in cui ci sono occupazioni, situazioni di movimento, a grosse finanziarie o comunque grossi conglomerati, Mondeggi, la stessa Viale Corsia, non sappiamo per l'Emerson, comunque queste aste che sembrano un passaggio tecnico, per quanto ci riguarda sono un passaggio politico in cui sembra domandando a questa neutralità si faccia passare nel secondo piano l'aspetto politico, che è quello di tentare di sgomberare, di azzerare le esperienze popolari, le esperienze di territorio, le esperienze che lottano per una migliore qualità della vita. Si cerca di spoliticizzare alcune operazioni, facendo leva su un supposto diritto fondamentale, potremmo dire quasi primigenio, alla proprietà privata. Poi alla fine se ne comprano sempre i soliti, cioè, quindi c'è l'asta ai Mondeggi, c'è stata l'asta per Viale Corsia, ci sarà l'asta per l'Emerson, e sembra siano cose così, no, è una scelta ben precisa da parte della parte politica della città, che è prona ai poteri forti, alle finanziarie, alle immobiliari, e quindi con questo meccanismo privatizza o comunque fa passare in mano delle grosse ditte, delle grosse aziende, delle grosse conglomerati turistici e così via, queste cose. Sì, su questo l'Emerson condivide, purtroppo, per fortuna, non si sa, un destino comune con tanta altra occupazione di Firenze. Infatti vi ricordiamo che in questo periodo ci sono state diverse iniziative contro questa catena di sgomberi che è stata annunciata, alcuni annunciati in maniera diretta proprio dall'amministrazione comunale, altri non proprio annunciati, però diciamo fatti annusare tramite appunto questi meccanismi economici dell'asta, della vendita, del piano di riqualificazione del quartiere, del piano urbanistico, eccetera, eccetera. E ricordiamo brevemente alcune di queste iniziative. Sabato c'è stata una passeggiata nel quartiere di Rifredi da parte degli abitanti di Valle Corsica, una passeggiata molto partecipata che ha riscontrato anche la simpatia della popolazione che veniva incrociata per strada. E c'è stata anche diciamo, una forte presenza poliziesca, poiché in Piazza Dalmazzo era presente un banchino della Lega Nord, quindi subito la Digos e gli sbirri di merda, appena hanno visto la presenza di alcuni pericolosi antagonisti, sono accorsi in forze in Piazza Dalmazia, tant'è che dopo pochi minuti non si riusciva più a capire se il banchino fosse della Lega o della Polizia di Stato. Però comunque la passeggiata è andata molto bene. Il sabato precedente c'è stata alcune iniziative sia di Mondeggi che del CPA, rispettivamente in centro e per le vie di Gavinana. Invece sabato prossimo ci sarà una biciclettata organizzata, questa volta domenica 24, una biciclettata organizzata dalla polveriera, anch'essa sotto sgombero, questa volta però da parte della regione, che appunto si propone di, attraverso un giro in bicicletta per le strade di Firenze, di sensibilizzare e opporsi a questa questione degli sgomberi. Invece per quanto riguarda l'asta di Mondeggi, l'appuntamento è il 1° marzo. Comunque rimanete sintonizzati sulle frequenze della Radio Wombat per avere informazioni, approfondimenti su questi argomenti. Ricordiamo che ci potete ascoltare o tramite internet in streaming andando sul nostro blog wombat.noblogs.org, oppure se vi trovate nella zona di Firenze Nord sintonizzandovi sulla frequenza AM 1359. Sul blog trovate anche tutti i podcast di Carta Canta, come delle altre trasmissioni della radio. Invece ricordiamo sempre, purtroppo, che stamattina c'è stata l'ennesima operazione poliziesca dopo gli arresti della settimana scorsa, anzi della settimana precedente alla scorsa a Torino, che hanno portato anche allo sgombero dell'asilo occupato. Questa mattina invece a fare le spese della repressione poliziesca sono stati alcuni compagni di trentini tra Bolzano, Trento e Rovereto, che vengono accusati di vari episodi di attacchi e a cui viene contestato a cui vengono contestati i reati 270 bis e 280 bis, quindi un'altra volta ci troviamo davanti a un'accusa di associazione sovversiva con finalità terroristiche, accuse anche molto pesanti, da cui emerge comunque la matrice totalmente politica dell'attacco e proprio il clima anche molto pesante in cui stiamo vivendo, in cui ci ritroviamo ad agire. Io non so se vogliamo aggiungere qualcosa, comunque l'Emerson per ora è ancora l'Emerson qua, resiste. Quindi passate a visitarlo, le iniziative che potete trovare sul loro sito sono veramente che tante. Che ancora è www.csaexemerson.it, perché non è stato ancora aggiornato dal 2006. Rimane quello, appunto, dopo l'ex è il Nest, perché era il prossimo Emerson. Quindi, e speriamo che rimanga il prossimo Emerson ancora per molti anni. E noi vi salutiamo, e continuate a seguire Radio Wombat. E sul blog trovate anche il palinsesto completo e l'orario delle nostre repliche, che ancora non ho imparato, ma invece per la nuova puntata di Carta Canta ci trovate in diretta martedì prossimo. Un saluto a tutti e baci dalla Tana del Wombat. Ciao ciao.